giovedì sera e vado fuori a fare il giro dei bar per cercare altri licantropi e fare quel che non si fa. Stasera non c'è altra destinazione se non di perdere reputazione. Meglio lasciarla a casa insieme alla dignità. C'è un concerto e ragazzine che balla rock and roll, e dentro in collisione con due occhi che fanno ma male al cuore. Sorride e cammina verso il bancone, cerca uno spunto di conversazione. Mi dice sai che il giovedì è nuovo venerdì, e intanto parto un ritornello che fa quel che non si fa. Cerca uno spunto di conversazione. Ciao, sono Jason e ammazzo persone. Mi dice sai che giovedì è nuovo venerdì.